Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La vita ordinaria non mi interessa. Cerco solo i grandi momenti. Voglio essere una scrittrice che ricorda agli altri che questi momenti esistono. Chi scrive questa frase è una donna che rappresenta una delle autrici più controverse del Novecento. È una donna esile, però ha grande fascino. È un po' francese, un po' americana, ha una educazione strettamente cattolica e poi invece una vita molto, molto scandalosa, soprattutto per la sua epoca. È la scrittrice che ha unito l'eros e la letteratura nella Parigi della Belle Époque, che ci ha lasciato un mastodontico diario in cui racconta tutta la sua vita e racconti erotici che rimarranno nella storia. Sto parlando di Anaïs Nin. La vita di Anaïs è costellata di incontri e di relazioni molto particolari. La prima relazione che la segna in modo perenne è quella con l'amato padre. Angela Anaïs Joana Antolina Rosa Eldemira Nin I. Kulmel. Questo è il suo lunghissimo nome. Nasce il 21 febbraio del 1903 a Neuilly-sur-Seine in Francia. Sua madre è una cantante, si chiama Rosa, il padre Joaquin è un pianista. Entrambi sono di origine cubana e lei trascorre un'infanzia tranquilla in Europa fino agli 11 anni, età nella quale scopre il vero primo grande dolore della sua vita. E lei viene abbandonata da suo padre, lo ama molto. La madre decide di lasciare la Francia e di andare a New York. Anaïs parte con lei, con i due fratelli. Durante quel viaggio scopre il mondo della scrittura e il 1914 decide di scrivere una lunga lettera al padre, una sorta di preghiera, una invocazione a tornare. Papà, te ne sei andato. Tu, il mio idolo, mi hai abbandonata per un'altra. Tornerai a me, papà. Tornerai e io ti riconquisterò. Voglio descriverti, caro papà, ciò che sto vedendo in questo stupendo viaggio. Potrò così avere l'illusione che tu sia qui con me e che tu stia guardando le cose con i miei occhi. Eh sì, e molte vite particolari sono partite da una separazione, dalla separazione dei genitori. Lei invece non si separerà dal suo diario, forse perché per lei la scrittura diventa un'urgenza, un modo per attenuare il suo dolore, un'esigenza che non riesce a fermare, che non vuole fermare, che andrà avanti per tutta la vita, perché lei terrà il suo diario per oltre 40 anni, fino alla morte. E per qualche anno spera ancora che il padre torni. Quando compie 16 anni capisce che è una speranza vana. Quella piccola bambina che racconta che non riusciva a mangiare l'ostia perché aveva paura in qualche modo di danneggiare il corpo di Cristo. Bene, quella bambina rinnega completamente la fede cattolica. Nella grande mela, Anaïs, che è una ragazzina curiosa e sveglia, conosce un mondo completamente diverso da quello in cui ha vissuto. Studia danza spagnola, a 20 anni si sposa. È un bancario, Hugh Parker Guiller. Lei chiama Hugh. Capisce in fretta che il matrimonio può essere anche una noiosa prigione. Per scappare inizia ad avere diverse relazioni extraconiugali. Non si separerà mai dal marito, che in qualche modo rimane una figura costante e diciamo anche accondiscendente nella sua turbolenta esistenza. In realtà si sposerà una seconda volta in segreto nel 55 in Arizona con Rupert Paul, ma poi chiederà l'annullamento per problemi tributari. A un certo punto lei sente l'esigenza di ripartire per l'Europa e con Hugo riesce a partire per Parigi, dove lui lavora nel campo bancario. Ricordati che alle 8 ti aspetto. Hugo, ti dispiacerebbe tanto se stasera non venissi. Sì, mi dispiacerebbe. Scusami, ma tutta quella gente che parla solo di mutui, di crediti e di affari immobiliari. Negli affari immobiliari c'è anche una parte creativa. Senti, è grazie alla banca se siamo a Parigi. Io di questo lavoro ho bisogno. E ammetto che a volte lo trovo divertente, sì, perché no? Perché no? Ugo, tu stai diventando lentamente un'altra persona. Della banca cominci persino ad averne addosso l'odore. Io lavoro anche perché tu possa scrivermi. Io voglio, ho bisogno di conoscere e frequentare persone più vive, Ugo. chiamiamolo bisogno, chiamiamo le persone vive. E nel frattempo però è arrivato il 1929, l'anno nero, l'anno della crisi della borsa. Lei ha 26 anni, è attratta dal clima, dall'aria che si respira in quel periodo nella capitale francese, che è un polo per artisti, scrittori, poeti, musicisti, per intellettuali. Lei si stabilisce con il povero Ugo in una bella casa a Louvenciennes, alle porte della città. Inizia a compilare la prima parte del suo diario, lo conserva per una successiva pubblicazione. È il diario che diventerà famoso come Diario di Anaïs Nin. Il falco e il gabbiano. Siamo a Parigi, 1931. Anaïs Nin vedrà pubblicato il suo primo libro, che è un saggio su uno degli autori che lei più ama, Lorenz. E il titolo è Lorenz, uno studio non accademico, perché lei considera l'autore del celebre L'amante di Lady Chatterley un suo maestro di vita e di scrittura. My first really passionate love for a writer was D.H. Lawrence. Il mio primo grande amore è stato lo scrittore D.H. Lawrence. Leggerlo è stato una scoperta per me. Le sue descrizioni delle emozioni, delle sensazioni, degli istinti e dell'ambivalenza, tutti gli aspetti oscuri e illusori del cammino dell'esperienza, sono stati un'illuminazione sul cammino che io desideravo percorrere. Il mio primo libro è stato uno studio su di lui, che definisco uno studio non professionale, perché ero ben consapevole di aver lasciato la scuola ed essere un'autodidatta e non un'accademica. Già quando era a New York, quando si annoiava, lei leggeva proprio lui, David Herbert Lorenz, l'autore che a quei tempi veniva considerato un pornografo, molto censurato perché i temi che lo scrittore trattava erano i sensi, il sesso, l'abbandono, la resa al flusso delle passioni. Insomma, lei si entusiasma e vuole scrivere un saggio, con la sua volontà la sveglia dal suo torpore, dalla monotonia della sua vita. Poi arriva a Parigi e lì le cose cambiano, anche perché qui conosce l'uomo che le stravolge la vita, Henry Miller, lo scrittore, quello che chiuderà i conti alla fine con Marilyn Monroe. È uno scapestrato, è affascinante, non è ancora famoso, lo diventerà con lo scabroso Tropico del Cancro e poi con Tropico del Capricorno. Henry Miller è sposato con una ballerina, June, ha avuto già prima un altro matrimonio da cui ha avuto due figli, vive con l'ambizione di diventare uno scrittore. Per sopravvivere si inventa diversi espedienti, tra cui quello di scrittore porta a porta, fino a quando dagli Stati Uniti non prova a tentare la fortuna in Europa. Ecco cosa scrive nel suo diario Anaïs Nin. È venuto a colazione con Richard Osborne, un avvocato che avevo dovuto consultare a proposito del contratto per il mio libro D.H. Lawrence. Mi è piaciuto subito. Non appena l'ho visto scendere dalla macchina e mi è venuto incontro sulla porta dove lo stavo aspettando. La sua scrittura è ardita, virile, animale. Magnifica. È un uomo la cui vita inebria. È come me. Era caldo, allegro, disteso, naturale. Sarebbe passato inosservato in una folla. Era snello, magro, non molto alto. Ha occhi azzurri, freddi e attenti, ma la sua bocca rivela emotiva vulnerabilità. Ecco Henry Miller agli occhi di Anaïs Nin. È un uomo magrolino, con gli occhi azzurri e freddi, ma con una risata contagiosa e una voce molto calda. E nel film Henry e June del 90, ecco come il regista Philip Kaufman immagina la loro prima conversazione. Ti presento Henry Miller, lo scrittore americano che Osborne sta ospitando. Ah, molto lieto. Anaïs, dovresti leggere qualcosa di Henry. Secondo me è superiore anche a David Lorenz. Sarei felice di leggere un vostro libro. Harry non ha ancora pubblicato niente. E lo paragoni addirittura a Lawrence? Non voglio essere paragonata a Lawrence. Anaïs ha appena finito di scrivere un libro su Lawrence. Forse la sua sessualità è eccessiva per voi. Eccessiva? È infantile, è piena di pudore secondo me. I francesi è da un pezzo che scrivono a questo livello. E parlo di Rabelais, di Flaubert. Francamente non vedo tra gli scrittori moderni chi non sia in debito con Lawrence. Ora, a mio modo di vedere, il sesso è una cosa naturale. Come nascere o morire. Harry è uno scrittore di scopata. Scopate. No, io affronto il tema dell'autoliberazione. Ah, non dategli retta, lui affronta solo le scopate. Sedetevi a tavola. Beh, insomma, si parte subito alla grande tra i due. Non è colpo di fulmine, però entrambi scoprono di avere affinità. La prima affinità è quella che loro due scrivono, hanno urgenza di farlo, sono voraci rispetto alla vita e, diciamo, non disdegnano gli incontri amorosi. Anni più tardi, per il documentario Anaïs Observe Anaïs Nin, Anaïs osserva se stessa, lei dichiara così. Il 1931 è stato anche l'anno in cui Henry Miller e sua moglie sono venuti a trovarmi a Louvciennes e ha dato inizio ad una fase interessante della mia vita. Quando Henry è apparso, era tutto così ovvio per lui. La sua forte gioia di vivere, il suo humor, il suo piacere per tutto, la sua curiosità per tutto. Nel momento in cui è comparso, ci si è sentiti sopraffatti dalla sua presenza. La loro è una passione che non esplode subito, perché Anaïs è interessata intellettualmente a Harry, ma non fisicamente, almeno all'inizio. Poi Anaïs vede per la prima volta la moglie di Harry, June Mansfield Miller, che lo raggiunge in Europa, e lei fa scattare una passione che durerà anni, anche perché la donna è molto competitiva su queste cose. Non c'è niente di meglio che andare in un posto con una donna bella per essere guardati dalle donne. Se ci vai da solo o con una brutta, le donne non ti danno retta. Insomma, parte questo particolarissimo triangolo, tutto diventa per ognuno un polo attrattivo. E lo abbiamo detto, June Miller è una donna bellissima, molto seducente, una femme fatale che esercita un forte magnetismo, è un magnete vivente per Anaïs, che sebbene abbia avuto un'educazione impregnata di valori cattolici è molto, virgola, molto anticonvenzionale. Ecco cosa scrive di lei nel suo diario del 31. Una faccia incredibilmente bianca, occhi ardenti. June Mansfield, la moglie di Henry. Quando mi venne incontro, vidi per la prima volta nella mia vita la donna più bella della terra. La sua bellezza mi sommerse. Mentre sedevo di fronte a lei, pensai che per lei avrei potuto fare qualsiasi follia, qualsiasi cosa mi avesse chiesto. Capelli biondi, faccia pallida, sopracciglia appuntite e demoniache, un sorriso crudele con fossette disarmanti, perfida, infinitamente desiderabile, mi attirava a sé come verso la morte. Eh sì, lei è la sua antagonista, è molto diversa da lei, però è bellissima. Insomma, l'ostilità tra le due rivali per la conquista del fortunato, a questo punto Harry Miller, cioè l'uomo conteso, accentua ancora di più la passione, tanto che Anaïs inizia a avere un vero e proprio interesse erotico nei confronti di Harry Miller, ma non solo, e intanto lo segue nel suo appartamento con intenzioni molto precise. Fu una follia leggergli i miei appunti, ma lui mi incitò a farlo. Fu una follia bere e rispondere alle sue domande mentre lo guardavo dritto in faccia, come non ho mai osato guardare nessun uomo. Non ci toccammo quel giorno. Eravamo entrambi sull'orlo di un precipizio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando questa donna raffinata, instancabile, anticonvenzionale, figlia della Parigi, della Belle Époque, 40 anni di vita, di passioni, di amori, di sesso in tutte le direzioni, di gelosie e di sogni, che peraltro lei racchiude in quest'opera monumentale che sono i diari di Anaïs Nin, i suoi diari. E stiamo raccontando questo strano triangolo tra lei, Henry Miller, e la sua bellissima moglie June. Insomma, una vita che sembra la vita di un romanzo, e non vi diciamo di quale genere. Inizia un connubio artistico, letterario, basato su affinità intellettuali, ma anche una storia di passione carnale molto intensa. Con Henry e con June, Anaïs intreccia uno dei triangoli più torbidi e scabrosi dell'ambiente letterario della prima metà del Novecento. Di questa relazione parlerà ne il diario 1-31-34, sono gli anni. E sarà proprio questa loro storia, fatta di amori e gelosie, la protagonista assoluta del film andato sul grande schermo, interpretato anche da Uma Thurman nei panni di June. Il matrimonio tra Henry e June finirà, mentre la relazione tra Henry e Anaïs durerà ancora molti anni. John, scusami se non ti ho più scritto, Anais, ma ti ho pensato ogni giorno. Tu lo sai, con la penna non me la cavo molto bene. Non ho il dono come l'avete tu, Henry. Ho trovato il tuo libro qui sopra. Non ti dispiace, vero? Gli ho dato un'occhiata. Il personaggio di Sabina rappresenta me. Il sommesso ansante mormorio delle due sinuose donne. Ci guardammo profondamente nei nostri occhi da squadrine. Si avvicina alla poesia, è intenso. È molto, molto dolce da parte tua scrivere qualcosa su di me. A Henry Miller Anais Nin presta la sua macchina da scrivere, prepara i pasti, gli dona del denaro, dei libri, appoggia la sua pubblicazione Il Tropico del Cancro, il romanzo che lui che uscirà nel 1934. Lei ama Henry Miller, crede in lui come uomo e come scrittore. Lui, dopo aver letto il libro di Anais su Lawrence, la elogia e la incita a proseguire come scrittrice. Insomma, si incoraggiano a vicenda. La donna che non speravi mai di incontrare. Eccola ora seduta di fronte a te e parla. E sembra tale e quale la persona che sognavi. Ma la cosa più strana è che mai prima ti eri reso conto che sognavi proprio lei. Scrive Henry riferendosi al giorno in cui conosce Anaï. Beh, la verità è che in quel momento Henry Miller non è ancora un grande scrittore. Lui frequenta ambienti equivoci, prostitute, gente degradata, scrive molto. Lei però ne intuisce la grandezza e il talento. Entrambi intanto cadono nel baratro di giorni e notti di passione, trascorse parlando di filosofi, di romanzieri, si sentono fatti l'uno per l'altro e quando non si vedono si scrivono decine e decine di lettere che poi sono arrivate a noi. In tutto questo, insomma, non ci è dato sapere cosa facesse nel frattempo il povero Ugo. Vi ricordate che in tutto questo lei rimane una donna sposata e si sente completamente dipendente da Harry, tanto che cerca delle relazioni con altri uomini ma anche con donne per non sentirsi troppo legata a lui. Lentamente si avvicina alla psicoanalisi, ha una relazione con il drammaturgo francese Antonin Artaud, lui stesso sotto trattamento psicoanalitico, e quando lui si accorge della insaziabile fame erotica della Nin, le consiglia di andare dal suo stesso analista, Allende, e anche lui presto cadrà sua vittima. Insomma, a Parigi rimangono veramente in pochi a non aver avuto storie con lei. Intanto gestisce la complessa relazione con Henry Miller fino a quando l'amore verrà sublimato dall'amicizia, un'amicizia che durerà per sempre, come scriverà Miller nel 44 in una lettera a un amico. Anaï per me è stata, ed è ancora, la miglior persona che abbia mai conosciuto. Una persona che si può ben definire un'anima devota. A lei devo tutto. È una vita che viaggia veloce, ha un rapporto controverso con la psicoanalisi a cui si avvicina per ritrovare se stessa e anche con gli psicanalisti. Delusa dall'analisi, prosegue con Otto Rank, allievo di Freud. Naturalmente avrà una relazione anche con lui, lo seguirà nella sua professione a New York, ma non è la sua strada quella. Insomma, torna alla letteratura e al suo diario che non ha mai abbandonato. Questo diario è il mio kiff, il mio hashish, la mia pipa d'oppio. È la mia droga e il mio vizio. Invece di scrivere un romanzo, mi sdraio con questo libro e una penna e indulgo in rifrazioni e diffrazioni. Tra il 44 e il 47 vive tra New York e Los Angeles, poi rimane in America. È qui che comincia la sua carriera di scrittrice scandalosa. Vive un po' con il povero Ugo, il marito, un po' con il suo nuovo amico Rupert, molto più giovane di lei. Insomma, scopre anche il toy boy. Scrive, parla di personaggi come Dalí, Gore Vidal, ma anche dell'ottusità e del grigiore delle persone che incontra. Intanto capita che un anonimo collezionista di libri offra a Henry Miller $100 al mese per scrivere racconti erotici. Henry accetta per soldi, ma presto si stanca e propone a Anaïs di scrivere lei al suo posto. Si tratta di storie piccanti concentrate su scene di sesso improbabili con poca poesia e molti dettagli. È diciamo il pane per Anaïs Nin. Lei trascorre le sue giornate in biblioteca a studiare il Kama Sutra, poi scrive la sera pronta per offrire al cliente misterioso, senza nome, però ricco, per pagarla senza ritardi. E in una delle lettere che lei scrive a questo collezionista di racconti erotici racconta che il sesso deve essere innaffiato di lacrime, di risate, di parole, di promesse, di scenate, di tutte le spezie, di viaggi all'estero, di sogni, di fantasia, di musica, di danza, di oppio, di vino, insomma, di tutto. La raccolta di questi suoi racconti erotici uscirà postuma. Molti di voi forse la conoscono, il titolo è Il Delta di Venere, inizia proprio come una proposta su commissione da parte di un collezionista di libri. Questo l'incipit del racconto Marianne. Mi chiamerò la madame di una casa di prostituzione letteraria. La madame di un gruppo di scrittori affamati che producevano letteratura erotica per venderla a un collezionista. Io fui la prima a scrivere per lui e ogni giorno davo il mio lavoro da battere a macchina a una giovane donna. Questa ragazza, Marianne, era una pittrice e batteva a macchina la sera per guadagnarsi da vivere. Tra il 47 e il 55 lei vive tra gli Stati Uniti e il Messico, non si fa naturalmente mancare nulla, neanche nuove esperienze. Così negli anni 50 sperimenta anche l'LSD, prova a descrivere come la sostanza agisce sulla creatività, sulla percezione del proprio subconscio, e lo scrive nel suo ultimo diario pubblicato, il sesto. Il diario personale di Anais Nin, iniziato nel 31, si chiude quando si chiudono anche i suoi occhi per sempre. Siamo nel 77. 3 anni prima, durante una lunga intervista, racconterà così della sua vita a Parigi. When I began editing the diaries, I became aware of a wonderful image. Quando ho iniziato a lavorare sui diari, ho maturato la consapevolezza di una bellissima immagine. Le relazioni e le amicizie assomigliano molto alle costellazioni che gravitavano intorno alla città. A Parigi mi sono sempre trovata nel bel mezzo di un gruppo in continua espansione di amici, artisti, scrittori, musicisti. Conrad Morican, l'astrologo, Harry Miller, Larry Durrell, Antonin Artaud, il poeta e scrittore, che poi ha avuto fortissima influenza nel teatro. E poi Otto Rank, uno psichiatra, un uomo erudito, che ha portato alla luce la psicanalisi, una straordinaria capacità di comprensione della creatività, specialmente nel suo libro Arte e Artista. Prima di morire, stroncata da un cancro, il 14 gennaio del 77, lei riceve la laurea ad honorem in lettere dal Philadelphia College of Art. Lascia ai posteri un'opera monumentale, 15.000 pagine dattiloscritte, raccolte in 150 cartelle, sogni, pensieri, ricordi, dialoghi, interventi e commenti su politica e letteratura. E naturalmente molta autobiografia. 40 anni di storia del Novecento raccontati con gli occhi di una ragazza esile, con una spiccata sensibilità, sensualità e una grande propensione verso il prossimo. Per quanto lei avesse voluto vederli pubblicati già alla fine degli anni 30, i suoi diari in realtà vengono tradotti e pubblicati tutti solo nel 66 e la rendono per sempre un'icona della femminilità. Storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno avuto cadute e risalite e in qualche modo hanno, e come nel caso di Anais Nin, capitalizzato le loro intense, plurime, poliedriche esperienze, una vita entusiasmante e particolare che è finita a diventare uno specchio del nostro secolo nei suoi racconti, perché comunque stiamo parlando di una grande scrittrice. Se avete dei commenti o volete segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, visitate la nostra pagina oppure venite a cercarmi sui miei social e sui nostri social in generale. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.